a bere un po', mi piace ammazzare, solo dalla moda. We'll be right back. seeds of love. I can give you seeds of love. Life goes on. Do you? Oh, adesso sei mia. Thank you. Ha ha ha!